l'ho visto, l'ha fatto già, già va bene. E io ne ho uno così fatto lo stesso da un amico, però è lungo 6 metri, così robusto, con i piedi quadrati, così bello robusto, però è 6 metri, capito? Sono due piedi in testata, due piedi all'altra e due ci sono anche al centro, se no si muccia. È 6 metri, è sotto la veranda, è grandissimo, infatti è sempre appareggiato in Chivi, pari l'armata Brancaleone. No, no, se vuole fare una cosa più carina, diciamo, li vendono anche quei rotondi, un po' diversi, capito? Però giustamente ha avuto così, così l'ho fatto. Ehi, ha fatto la foto, ti piace? Sì, sì, va benissimo. Ah, va bene, già va bene, già ti appenti. E cosa vuoi fare? Ah. Ogni tanto fare una cosa diversa di che faccio ogni giorno, di elettrico, ma allora conviene fare un po' diverso, dai, per staccare un po' la spina anche lì. Ma infatti tu sei elettrico, però già fai anche qualche lavoro di falegnameria, già va bene, dai, bricolage. Via, fai da te. E via, e qua anche, comunque ti posso dire, quello che ho piantato ai citrioli, buonissimi, cavolo. Ehi, abbiamo fatto insalata a pranzo mia moglie, c'è che li fa anche stanotte. C'erano quattro belli e li ha tolti, e un bel di zucchine c'erano, li ha tolti, li ha tolti, però le zucchine vuole fare le frittelline di zucca, gli ho detto, mi non li va oggi, a che sciogo gribado, in settimana le fai. No, io proprio quando non lo so, ho il caldo, comunque senz'altro il caldo, non mi passa la voglia di mangiare, di cucinare, non aggiungare a bucla di va nulla. A volte me la sto con due fetti di anguria, guarda, ti giuro, mi basta tutta la gara. Buh. E tra me dico, ma dalla parte mia, ma quelli fanno un po' di panza. Io ho mangiato tutto a pranzo, mezzo malone. E ancora ce n'è stanotte. Infatti ce la mangiamo stanotte. Non fa nulla. Tanto mia figlia è fuori a cena con il ragazzo. Noi siamo la giora, non ve nessuno, quindi facciamo un po' di salata, ma frutta, boh. E poi mi bocio, ma prendiamo un po' di fresco e basta. Io ho ancora 50 con mia figlia, infatti dice me, oggi ci mangiamo, c'è ancora l'agnello, una salata, e fai così, qualcosa mangiamo, tanto. Tanto mi mangiamo qualcosa di dire, boh, ma che proprio non è una grande cessagana, mangiato bene oggi a pranzo. Però ripeto, se li vedi così, un po' di carne. E ce n'è uscito anche un pochettino per i cuccioli, dai, che anche loro ne pare a vero. tu mangiano. Mio, sai quanta roba ci abbiamo buttato? Le ossa, pezzi di carne, di tutto. Ma male, c'era un amico che c'ha un cane grande e mangia tutto. Il mio non le mangia di quella roba. I miei, no, il mio no, ma neanche gli altri non le mangiano. Mangiano crocchette, pasta, roba sana, capito? Carne senza ossa, però. Senza ossa, sono cani particolari, voi li fate male, quindi va bene, non vediamo nulla, lampemmo di tutto. No, io quando prendo un bel po' di cosce di pollo, eccetera, le faccio anche per loro, giustamente. Piano piano mi appento solo l'osso cartilaginio, quello e polpa e basta. Infatti io prendo la sera la vaschetta dei cosci di pollo, ma se ne mangio due anche troppo il resto, tutto per loro, capito? Ne divido due piatti, anche c'è quella nera, quella bassotta che loffia, si mangiano giù e lì dai l'altra la giurita, allora ne divido, capito? Prima uno poi l'altro, separati, e così mangio tutti e due. Quella marroncina invece è più attaccata a me, sempre vicino a me, sempre vicino a me, quella si è appensionata, gà. Non le dai ossa di pollo, no? Anch'io quando prendo il pollo, io prendo il petto, glielo faccio tutto a spezzatino, glielo do al mio. Niente ossa, soprattutto di pollo le bucano l'intestino, sono aghi. Né pollo, né ossa di pollo, né ossa di agnello, niente. Preferibile un osso di quello duro, un osso buco, che loro lo rosicchiano e lo vanno in polvere, sì. Ma ossa così piccole no, ai cani non se ne danno, se non le buca l'intestino, capito? Vabbè. No, Agnello, ma non ne voglio vedere pa' un mese di Garrio, assolutamente. Cosa c'era da mangiare ieri, allucinante. Sì, perché queste giornate, cioè queste giornate, c'è questo periodo che là, cosa vuoi fare? Quando vai in caggio, mica puoi fare la pasta. Ma manco a cercarle, ui. Più che a fuori di insalata, insalata, capito? Perché è rinfrescante, fa bene, non ti gonfia. E stai bene anche poi, la sera specialmente vai presto a letto. Cioè presto, mica dormiti, non ti dormenti niente, guarda la televisione, però sei leggero. Capito? Anziché andare a buffare, no, assolutamente, mai di notte a coricarmi con la pantamina, ui, la capelli. Il caldo te lo fa, io ripeto, odio l'estate, perché più ti sgombi più c'è caldo, di vero mi piace troppo perché mi copro, lavoro, fai l'energia cinetica, automaticamente ti scaldi, stai bene, come temperatura, invece d'estate no, non sai più cosa fare, quindi... State poi ci pure mudando, ci va caldo tutto ogni cosa. Non cambia assolutamente niente. L'inverno a volte c'è troppo freddo, capito? L'inverno mite, a me piace molto l'autunno così, capito? La primavera e l'autunno. L'inverno e l'estate, soprattutto le piogge, io odio le piogge, perché devi stare a casa, non puoi far nuda. Non è che puoi stare in giro, capito? Invece l'autunno e la primavera per me sono le migliori. Ma che io guarda, ti dirò, la pioggia la odio. Uno, perché non mi piace l'ombrello, non lo uso mai. Due, anche diventa un patame, no? Fango, ghita, che dazzo. Ma dai che la macchina metto vicino, quindi dove metto io la macchina è proprio vicinissimo al cancelletto, quindi non è mi sporco più di tanto. Però ripeto, col fatto della pioggia, ti bagno, casino, non mi piace. Sì, freddo quanto vuoi, però se non piove sono l'uomo, mi finisce il mondo. No, qua puoi abitare anche l'inverno, è tutto a cemento, no? Tutto piazzale a cemento, ci sono le macchine, veranda, tutto. Non ce n'è, non ve ne pantammo. Non è quello il problema, è che devi stare a casa, anche a fare una passeggiatina col cane quando sta piovendo la sera, è un casino. Infatti a Sassi lo porto sotto il porticato, nel giardino interno dove è coperto, capito? E la pioggia è così, l'inverno è così, temporali brutti, devi stare attento, noi poi che abbiamo le radio, stacca qui, stacca là. È bella la primavera e l'autunno. L'estate è un po' così se è mite, nel senso che le temperature non siano molto alte, allora può essere piacevole anche l'estate. Ma in questo contesto, come quest'anno, per carità, è l'audio l'estate, guarda. Ma la maggior parte di gente è così, eh. L'estate, bro, non piace. Io ho notato, quando vado poi in bagno, sembra la camera sauna. Ma carità, mamma mia, perché la porta, c'è la finestra, la aperta, ma c'è un caldo, si chiude da solo al vento, bro. Caldo, giuro, caldo, se non gira l'aria, se non gira vento fresco, se tu lasci le finestre aperte vai in cubatura, quindi devi tenere tutto chiuso, capito? Perché quando inizia quel vento lì becce, il vento scirocco che è caldo, ti entra dentro, a te sembra che stia rinfrescando, ma fate in cubatura. Se invece è vento freddo, fresco, non freddo, perché è fresco, come il maestrale, il greccale, il ponente, quei venti lì, capito? Allora rinfresca un po', ma se no, ui. Allora, ma comunque strano, Manuele l'ho chiamato, cioè di volte mi ha chiamato, se ne trova, non mi ha chiamato, di solito mi chiama, io voglio avviare lo telefono, a telefonarlo, aspetta che sia col telefono, che posso lasciarti in cucina, aspetta. Fai, già sono in oghe. Ecco, adesso provo a chiamarla a vedere. Chiamalo. Perché è impossibile, qua. Allora. Dunque, ecco qua, Manuele, vediamo un po'. Se mi risponde. Comincia già a preoccuparmi. solito mi chiama quando io lo chiamo e non mi risponde, e mi richiama sempre. Mi squillano, prende. Non so a chi chiamare altro, c'è un fratello che lavora da Lintas, però non so il numero io. Nel caso non ha telefono. No, negativo. Sta sempre squillando, ma non risponde. Già era messo male con la schiena, eh. Niente. Strano, tu a quest'ora che ore sono? Sei un quarto, quest'ora sarebbe già stato in radio, magari a fare due chiacchiere. Capo, infatti, mi sto meravigliando perché non è da luce. Io quante volte lo chiamavo, lui il telefono non sentiva, pure c'era non so dove, poi insomma, dopo una, due ore, tre ore mi chiamava. Da ieri non mi ha mai chiamato. Due o tre volte l'ho chiamato, l'ho chiamato anche oggi, niente stamattina, adesso niente, boh. Comincio a preoccuparmi un pochettino. Molto strano. So che era dalla sorella, almeno. Ma risaliva, mi ha detto. Poi. No, ma sicuramente è salito, vai. Ma se fede la doccia, sta facendo qualcosa, lo sai, è sempre in vendita, per quello che. Non c'ha il telefono, adesso prende il telefono, poi già ti rispondo. Ma speriamo, avete la chiamata, le chiamate mie. Poi mi stavi chiamando, padre, e beh, ha giù preso. Se mi hai chiamato, vedi che ti ho chiamato, non mi hai risposto. E si conferma. Cosa vuoi che ti dica? Già la faccio buca la mano in atto, la batteria, a crescimarlo. Più o meno la penso come te e me. È un bravo ragazzo, Emanuele. Si vede che è un bravo ragazzo. Un po' sfortunato con il lavoro, cazzo. Vabbè che con quell'età non è facile trovare posto di combattimento. No, vabbè, piano piano. Verrà il tempo bello anche per lui. Glielo auguro di vero cuore, guarda. Io posso dire che sono uno dei pochi, diciamo uno dei pochi perché si guardi in maggioranza, abbiamo niente che senza trabaglio. Io sono uno dei pochi fortunati che ho sempre lavorato e nei posti sono sempre durato molto. Il più poco sono durato 4 anni, se no fino a santo 10, sì con un'impresa, qua ci sono 22 anni, fate un conto. Come ho fatto io. Quando inizi da giovane hai la fortuna di lavorare con continuità, arrivi poi a fermarti al tempo giusto, ma lui non ha ancora le maniappa nel calcio. Ebbene, già che di pensione per carità, ti danno quella che ti danno. Poi domani c'è chi di gnocchi, la tua consorte non è che gli danno la pensione per 21, meno il 40%, gli danno il 60%. Lo so perché quando è deceduto anche la buona di Gavino Antenna 1, alla moglie l'ho dato il 60% letto lui stesso di pensione. Era pensionato lui. Cioè, ma è dimmi tu, paghi tasse gli amici. A fine anno con guaglio altre tasse. Tra le mie pensioni meno 20%. Chiudi gli occhi il 60% la consorte, ma questo governo mangia sempre mangia. Che cazzo tu lo mangia? E certo che mangia. Beh, voglio metti di ghia. A te va a bere, c'ho 7. Cappa. E prova a ver se ti risponde Emanuele. Adesso lo richiamo al telefono io. Mi senti con la tenera in gomma? Sì che ti sento. Andale. Claudio è ritratto, sì. Sì, non so. Non mi sente? Claudio, mi senti? Con la tenera in gomma non lo so. Ma tu mi ascolti? Sai che spiego il telefono, che siamo con due cose sto parlando, gà. Sì, sai, si sente una cosa. Mi ha cicomino, mi. Cucadu è là. Qua. A mia coppi. A Puglia. Bene. Sto usando quella grande, con l'MC60. Hai visto che già avve? Come mai non rispondevi a padrino? Drummi due. No, allora, stamattina, ma c'è Maddu, ero guidando e stavano facendo Alghero. Poi oggi ero in bagno e non l'ho fatta rispondere. Ma potevi richiamarmi, ce l'ho mai richiamato. Deve richiamare, lui era già preoccupato. Quando vede il fumo si deve preoccupare. Il fumo può essere anche un segno buono, vuol dire arrossendi. Appunto. C'è tempo. A mangiare pezza. E non c'è ribisciare, è giovane. Non c'è ribisciare. Mangiare allora. Sì, anche quello è vero. Infatti alcune foto che c'ha, anche su Facebook, arrossendi. Non vedo che arrossendi. Arrostire, bisogna arrostire. Mangiare. Mamma mia, come sto... Sì, anche se casino, abbassate i gambaroni. Corso, gas. 100.000 volte mi faccio arrosto, sono l'uomo più vincere del mollo, del mondo. Quando poi capocollo, mamma mia che è buono. E le metto un po' di quella a fare per arrosto, uia. A gambe li state andando, Manuel. Caro, sono abbassate i gambaroni. Ui, te qua. Vai, Tony. Uia. Niente, io mi sono fatto un pigiolino, però mi sono scendato più caldo di prima, per carità. Mia figlia si è messo il sdraio fuori, stava abbronzando. Adesso si bruciano le gambe pure. Ehi, pare che usci, ma se c'è sole ti metti la sdraia, che campagna, ti bifigheggiami. Lo so, ho detto, mica, una ragostina stai diventando. Poi mi accommettete la piglia lavoro, la piglia impresa, gà. Gaiette. E stasera dai, si chiude questa settimana di festa. Domani già lunedì inizia la normalità, vabbè che è ancora tutta la settimana di ferie, però già va bene. Dai Manuel, questo lunedì e l'altro lunedì siamo andati a buono. No, non mi pare vedo, cazzo, non ve la posso più, perché io sono tutto canto sciancato. Sì, ma ci ho fatto un pezzo dai noghi. Ah, cosa ti dico? Dei metri sarà. Fasi animali, io all'anca mi dovevo bussare subito. E lo fa anche a me lo fa. Fai due passi o sei piedi e ti tira la gamba. La vecchiaia in sé. Cosa c'è? Problemi di circolazione, ma noi no. L'ernia al disco anche lui. Cosa? L'ernia al disco anche lui. Maledetta, mamma mia, non odiamo mai il cazzo. Ho fatto tante di quelle filtrazioni e punture, Sant'Antonio mio. E l'altro giorno ho fatto degli sforzi, così, ma leggeri, stavo spostando alcune cosette. Cazzo, mi sono alzato la mattina, che ero tutto d'oro e faceva di nuovo la schiena. Guarda, a me non ho sbagliato la cura, io ho fatto 50 iniezioni. Tanto è vero che io ho una gamba, alla destra, che è un po' priva di sensibilità. Sono andato a fare altre visite, lì all'INAIL, perché non avevo sensibilità. Mi ha messo sul lettino questa stronza, dico stronza perché mi ha messo il piede sulla pancia sua, spinga, lì mi entrava un ago dietro il polpaccio. Ma mi ha chiamato questo facendo male. Anzi qua, e là, buccava là, poi mi sono, quando si giri, il lettino è tutto pieno di sangue, ho detto basta, me ne sto andando via. Dice, e allora deve continuare la prossima volta. No, non mi vengo più e me ne sono andato. Male fa, anch'io ne ho fatto un bel di punture, muscoli a volta e a gogo. Però fanno male, non ne puoi approfittare, capito? Non è che puoi stare sempre a vendere punture, no? Lo so, fa male. Voglio provare questa acupuntura, chissà se funziona. Vediamo se funzioni, che vada bene. No, funziona perché l'ha fatto gente che conosco, Tony, eppure Navi Adrena del disco. Non la faceva manca lasciarsi la volta. E quindi poi te l'ha detto anche lui, questo qua, Antonio Billo, fa, te ne accorgi subito quando dopo un secondo se ti ha fatto effetto, perché te ne accorgi. Sì, ma Guido che ha detto ci devi credere, cazzo, se non vi credo, se sono scettico, non mi basta, boh. Ma lascia perdere quello. Non è così, e se ti fa quel lavoro lì, l'agopuntura, te ne accorgi tu stesso che ti ha fatto già bene. Comunque entra soltanto la capoccia del lago, sono talmente fini che manco te ne accorgi. Sì, sono fini. Ma sì, e ci vorresti pieni di spillini. Fa che si mette in mano, si intendo zucchini, sai, vadi che non mi so più io. Forse l'ho preso, A me non intendi zecchini, forse è il dottore che ne sono contenti. Cazzo, te immagini già sta. Infatti, se mi fa male buca. Non si crea giattonino, buca edo. No, ma dovrebbe essere una cosa. Se l'hanno già sperimentata vuol dire che funziona. Ci mi hai detto a me cosa roba cinese, ma tu non francese, è la prima cosa che intendo io francese, buh. E vedi che funziona, cosa vuoi fare? Poi è una cosa naturale, capito? Magari efficace, va bene. Ma speriamo. No, ma già funziona, dai. Tu devi crederci, Tony. Vedrai che poi saltiamo come due canguri, Ce la andiamo subito a ciocca. Ah no. Allora siete a posto tutte e due. Che noia, che barba, che noia, guess. Beh, non passa più la sera. Sì, già passa, sono già le 6:30 quasi. Sono rinfrescato poco fa, ci ho guidato tutto a piccigoso d'ora. Mi sono messo a caricare. Hai messo a caricare la radio? Via, porta il telino. Sì. Ma invece ho questo ventilatore e non intendo più la rete io. Oh, Tony. Dimmi tutto. Ma la telefonata a colui? No. La gente si chiama, ve l'ha già detto. E fa... Ti ha chiamato? No, non si è tutta nessuno, e fa... Vai, te lo spiego con calma, dai. Un altro momento. Ok, là. Già va bene. No, io i portatili ne uso pochi perché si carregheggiano. Sono portato il veicolare, quello piccolo. E già va bene, l'alimentatore c'è, quello del baracchino, già attaccato in kiwi, già funziona. Ah, beh, io ho quello da 15 ampere e sto usando. Cosa posso dire? Però sì, giustamente, scalda un bel pure, perché non lo noto io dal fianco, quando modulo, un po' scalda. Ci vuole un veicolare, ti riprende, portate non va bene per caso. Sì, trovati uno di quelli e lascia perdere il baracchino, Tony, se sei appassionato qua, è una bella frequenza questa, poca gente. Compra una radiolina seria, attacchi all'alimentatore e non hai bisogno di garegga più nuda. Vabbè, e più là ci vediamo. Tutto è a provare com'è la questione, capito? Adesso sto provando, sai, comincia a piacermi. Sì, è tranquilla, no? Non ce n'è problema. Sono quelle poche persone che parlano tranquillamente, due chiacchiere, così come stiamo facendo noi. Ce l'hanno assegnata questa frequenza, prendiamola, cosa inutile sta sempre un po' da una parte, un po' dall'altra, già va bene. Intanto nell'altro non c'è mai nessuno, la carità. E magari chi c'è che bisogno fate ne buro danno, quindi. E allora? Fanno orecchie e porco e continuano a fare orecchie e porco. Avanti, Manuele. E ragazzi, vada che c'è buco, importante che non faccia neanche. La stessa cosa ti dico, da un orecchio mi entra, dall'altro mi esce, a me non si tascia, io vado avanti per la mia strada, non cerco nessuno, se vogliono cercare facciano, non si tascia a me. Sì, ma poi è tranquillo come frequenza, non c'ho né sopramodulazione né niente, così bella che pulita, bocca niente, vedi russo. Canta a Vittoria da Giuditto, che l'hanno baciato, era un casino. Portanti, di tutto c'era, bambini che entravano a destra a sinistra. Ma in questa frequenza? Sì, in questa frequenza, infatti ce l'avamo un po' ritirati. Sì, lo sai che l'ho sentito anche un paio di giorni fa che entravano bambini in questa frequenza. Sì, allora già lo so. Guarda, i camperisti c'hanno tutti i PMR e quando sono uno dietro l'altro. Io ho saputo assassare che c'è l'antenna molto alta, molto grande, ma lo sai cosa intendo? Di tutto e di più. I bambini che si mettono a giocare, dove sei? Giugendi, vendi, disturbavano un bel. Adesso c'è un po' più di calma, però è pieno di queste, di PMR, capito? Me lo posso immaginare, me lo posso immaginare. Ma l'occupare già nella scatola di cioccolatini che i genitori glielo comprano per giocare, senza pensare che non è un gioco questo. Sono frequenti assegnati a noi, e quindi bisogna avere un po' di rispetto, però bambini sono, cosa li vuoi dire? Lo so. Ma speriamo che rimanga pulita così. No, me lo auguro. E se no io faccio come faccio dall'altra parte. Se mi piace entro, se no sto in ascolto, non me ne fotti nulla. Già c'ho altro da ascoltare, da fare, non c'è problema. Andar bene. Ma io ho anche un ricevitore piccolino e non ho mai compreso nulla. Boh. Ricevitore portatile? No, veicolare piccolino. È bellino, Fammelo vedere, vediamo che cosa si può fare. Se ti posso far vedere come funziona, volentieri, non è un problema. Io di veicolare ne ho avuto male. Ne ho avuto male. Questo è quello che usavo in macchina. Poi non l'ho più usato. Ho detto, va, rubiglio, l'attacco, l'ho tratto in PMR, si rabbiglia il culo. E c'è scritto di Albrecht. Boh. Albrecht. Sì. È un buon ricevitore quello. L'avevo preso alla... da Tonino alla CBC l'ho preso, però ti giuro non ho mai compreso un bifero. Boh, c'è scritto anche roba marina, CB, un sacco di roba. Boh. Sì, magari quando ci vediamo, qualche volta che ci vediamo a prendere un caffè, fammelo vedere, vediamo cosa si può fare. Magari portala all'attacco, facciamo funzionare con l'accendisigari e vediamo cosa succede. E c'è anche la tenina suo piccolino, capito? Che lo posso inserire. Io ho provato, non ci capisco. Cioè, quando uno non capisce niente, non l'ho mai visto. L'ho preso, ma io pensavo che era un ricevitore, insomma, come conoscevo gli altri, questo è diverso, una poca di tastini. I tastini servono per farlo funzionare, quindi bisogna cercare quelli giusti e farlo funzionare. Ma quel microfonino non te l'hai fatto mettere a posto da Luca? Sì, sugars. 5 minuti qua faccio il microfono, è che io non ci vedo a saldare, se no te lo vi battevo. No, io è che Luca chi l'ha sentito. Boh, non entra mai in frequenza intro, che. Non c'entra, perché non c'è il nuovo telefono manuale. Te l'ho detto dalla manuale, vedrai quello piccolino, che è più bellino. E ti fai cambiare con lettore. Oppure me ne fai tagliare uno, adesso bisogna provare col test e qual è, se è la trasmissione è quello grande o quello piccolo. E ne usi uno solo, capito? È facile fare quei connettori lì, è che i fili sono talmente piccoli che non ci vedo io. E io sono andato a appoggiare, se trovo un microfono proprio per lui, non niente, e uno spinotto, guarda questo qua, e mi stavano due cose di auricolare, e se ne voto, no, lasci perdere, vai. Ma ti pare che... Manuè, cosa dici? Si può provare? Ma di cosa? Del microfono? Perché anche Manuè mi ha dato il microfono. Ma lo inserisco e non mi dà nessun segnale. Schiaccio nulla, zero. E mi ha dato piccolino stesso qua. Che sono le connessioni invertite, capito? Non tutti vanno bene. Non tutti vanno bene. Però il microfono di quello lì, se guardi su internet, di quella radio lì, di quella che hai tu, cioè, mi pare costa 16 euro, una cosa del genere. Non arriva a 20 euro, forse 20 euro col trasporto. E c'ha il suo microfono originale. Ma lo devo trovare, uguale al suo Baofeng. Che poi non so neanche che sigla, io si vedo. Allora. È scritto talmente piccolo. Ma Baofeng, non c'è né numero né niente qua. La sigla è togli la batteria. Il capita, se tocco la batteria spengo anche il coso, spengo. Sì, ma è la sigla lì, dentro il coso della batteria, Tony. Aspetta un attimo, lo spengo adesso, voglio vedere un attimino. Rientro subito. Sì, ma ne hai già tre microfoni. Se, a parte il fatto che potevi prenderlo uno, ne prendevi uno, un jack, di quelli per le cuffie, per baracchino. Capito? Mono, non stereo, mono, uno di quelli. Tagli quello lì, prendi i fili, li attacchi della portante e la ricezione usi quella del portatile. È una cazzata farlo, ma sono talmente fini quei cosi che ci vuole uno che veda bene, ci abbia un saldatore buono, se no lo bruci. Modello BN5, BL5. In base a quello, a quel modello lì ci sono i microfoni. Se no ti ho detto te ne adatti uno, perché non l'hai preso quel jack, ne prendevi uno da Fusaro e ne usi uno, ti ho detto, fai la portante e la trasmissione dal microfono, la ricezione dalla radio. Sì, ma Ocla, per fare quel lavoro lì, se mi devo tagliare lo spinotto, per forza io uno devo sacrificarlo. Per sacrificare, Carlo, automaticamente faccio così, mi provo i fini contatti se ci riesco a fare io, ma siccome sono sicuro che sono infinitamente fini, che diventi macco, cioè infatti volevo dare una persona che già se ne intende, capito? Che già ne ha fatto altri e non ha problemi. Io battesimo con i bicciti, lo stacchi in vicino, beh dai, oh magari dai. Ho detto, ma tu dici a portare la flipper a Luca. E lui già lo sa fare, ti posso dare il numero, lo chiami e glielo dici. Beh, allora fa così, mi manda per messaggio il numero, dai, così lo chiamo e vediamo un po'. Intanto Tony te lo taglia, perché quelli sono stagni, non li puoi aprire quei jack lì, quello lo devi tagliare e attaccarci lo spinotto unico, capito? C'ho due viri, cosa devi incasinare, due viri, insomma, cosa devi incasinare? Uno di quello grande e uno di quello piccolo, ricezione e trasmissione, basta. Non l'ho mai aperto, non so, ho visto che sono praticamente sofisticati, piccolini, pensavo che c'erano un bel po' di fili, poi sono sottili, capito? No, ne hanno quattro perché c'è la ricezione anche dal microfonino, ma tu la microfonino, la ricezione, la elimini e ne usi due, capito? PTT e coso, e portante e basta. La ricezione usi quella della radio, quindi di foro ne usi uno e basta. Sì, cioè io mi interessa solo la trasmissione, mi interessa. La ricezione uso quella della radio, però non ho più che scontato. Però quei microfoni c'hanno due, uno grande e uno piccolo, perché portante, la portante e la ricezione ce l'hanno dal microfono, capite? Se invece tu uno di quelli lo elimini e usi o quello piccolo o quello grande, che non so qual è esattamente quello che fa funzionare il PTT, ne usi uno solo, e boh, è una vesceria a farlo, solo che sono molto fini quei fili, e se no è un saldatore buono, lo bruci. Già ce l'ho quello buono saldatore, mio due. Sì, Manuele, mi è arrivato il messaggio. Tu senti a Luca, glielo dici, c'è un microfonino per il Baofeng che mi hanno dato, però le connessioni sono diverse, me lo tagli e mi metti uno spinottino per la portante, poi la ricezione uso quella della radio, capito? Ui, anda bene. Prova. Ecco qua, già registrato. Allora, lo chiami e glielo dici, che ti hanno dato dei microfonini per il portatilino, e da tre ne arriva uno, già te lo fa Luca. Ehi, vuoi fare a me il connettore? Adesso lo lasciamo passare questo effetto e poi glielo do. Connettore clippato per il 706. Andar bene, che ne sono fatte? 7:20:50, che non vuole che l'accompagno tardi, quindi ci mangiamo un'insalatina di ferrafaga. Sì, cosa pensi a mangiare stanotte? Salatina, aspetta, mia figlia se ne sta uscendo a cena con il ragazzo, stanno andando lì al pescatore a mangiare un po' di pesce. Io e mia moglie ci facciamo una bella insalata e un po' di frutta, boh, basta, finiti di vestiti. Ah va, ci avete sopra a Natale, boh, la vecchia. Ehi, a Natale, ma che? E si conferma proprio. No, ma io non ne ho voglia, sono se ne andato anch'io a mangiare un po' di pesce. Questi giorni carne, baccari dai. Manuel. Ehi, sono qua. Sì, lasciato il rito. No, aspetta che sono un attimo al telefono, un attimino. Ehi. Andà bene, dai, non vedo l'ora di dirvi il giorno 24, ragazzi. Che poi, sai quando sto lavorando male, cazzo. Stato cominciato a fare tutte le verifiche, la scuola è grande, e fai corridoi, e fai aule, e fai piano primo piano, fai la uffici, bagni, servizi, tutto. Insomma, quando cominci a camminare, dopo 5-10 minuti, ti dici, busa, anche il dolore è troppo forte. Mi siedo 10 minuti, e poi per altri 10 minuti posso andare bene. Poi mi viene tra dolore e tra busate. Sto lavorando male, ya. Eccomi, te l'ho detto. Io ero un po' più avvantaggiato di te perché stavo molto in macchina, però quando mi scendevo a fare altre cose mi facevo male sempre la schiena. Io tutte le mattine mi dovevo prendere una bustina se volevo star bene durante le 6 ore e 40 di lavoro, se no ero sempre a diguglio. Comunque ho letto che, ed è vero, sono un'attitudine sforza anche lavorative che fa, eccetera. Tu pensa che smontare i motori dell'antincendio 80-120 kg in due, smontarlo, portarlo sopra e metterlo in macchina, portarlo già a riparare, dare un viso che a carica dove sono le vele, poi riprenderlo domani che l'ha aggiustato, riscenderlo di nuovo giù, ripiazzarlo, insomma, a farlo per 22 anni alla fine, quando volta ti abbassavi la china tra oggi, tra domani, sforzi qua, sforzi là, e automaticamente è ovvio. Ah, stai scherzando, poi a una certa età non si possono più fare quelle cose, io ne sto risentendo moltissimo adesso, perché tra l'umidità sempre sotto, io scendevo al Coghinas, nelle sotto, cosa ben si sia, sono 7-8 metri sotto derrami, nelle gallerie del Coghinas, quindi l'umidità, quando andavamo ai pozzi, quando ero a Perifras, quando ero a Tempio, è tutta umidità che ho accumulato, le ossa, è chiaro che adesso ne risenti. È bella truci bene a tutti, troppo è così. E le volte d'estate che andiamo a pescare tutta la notte fuori, anche se mettiamo giù botto, però è sempre ghiaccio la canzona, purtroppo. E vabbè. Non lo puoi fare ore piccoline. E me mi sono accorto che prima andavo a pescare verso le 9:30 e ritornavo di domani mattina. Quando è che sono andato a pescare? L'ultima volta 3 anni fa in mare. Cazzo clà. Sono uscito verso l'inizio. Cazzo, non si mi sono già tornato a casa. Ah, ma mi annoia a pescare così. Stare tutta la notte a pescare. Mi piace di giorno, andavo. Però no, non è una cosa, un hobby che mi piace. Ui, tutta la notte in chiwi, la sigaretta in bocca, caffè, sigaretta in bocca, insomma, tenuti andavamo con Franco. E a calamari, a pescare, di tutto. Poi basta, non sono più andato. Non ci sono più andato, andavamo la mattina, anche d'inverno, lì al Moloasi, poi a Nisarado tutto non siamo più andati. Ma il tipo di genere che fa, di pesca che faccio io non puoi pescare di giorno, io faccio pesca dalla spiaggia, capito? Ed estate sono i bagnanti, quando se ne vanno i bagnanti allora calavo tutto, 2-3 canne da 4,50, Starlight e tutto, sedionina, borsa frigo, mi mangiavo qualcosa, andavo presto molte volte, però quando non si andava i bagnanti, 9:15, allora iniziavo a pescare. Ma ho preso sempre i miei pesci, pure la spiaggia è molto meglio, perché non usi ricopro di niente, il pesce viene più tranquillamente. Invece mezzo in roccia è un casino, perché il pesce si spaventa, deve prendere il copolo, poi perde, poi cocciare, è un casino. Ho perso troppi piombi, allora ho usato quella tattica della spiaggia. E da lì mi sono divertito sempre, grazie a Dio ne ho preso pezzi belli. Sì, sì, se fai così sì, già va bene. Datemi 10 minuti, dai, che un attimino devo sentire mia figlia cosa dobbiamo fare dopo. Riprendi, Emanuele. Ma è alla bassa, ha detto. Vabbè, io te lo metto a caricare perché il telefonino è acceso, Sì, è già tutto acceso qua, A dopo. Ok, grazie. Buon X. Ma non c'è più nessuno. Tony. Ti ho chiamato. Ti ho detto che era al telefono. Sì, vabbè, ma che cosa? Ti ho salutato un attimino, ha fatto 10 minuti di Core X, capito? Non l'ho sentito perché sono allontanato da dove c'ho la radio. Hai visto che Manuel che ti ho mandato? È uscito bene. Io, mi piace così. È uscito bene, è uscito dove? Io volevo farvi fare quel ripiano là, ma vediamo. Sì, ma se tu, caro mio, quando basso un paese altre cose, non me lo ricordi, poi sei sempre al ghero, al mare, divertirti, magna, gamberoni, e vai, e figlia. Ah, adesso, adesso in caso è, tanto domani cosa avevi fatto? Domani e lunedì. No, martedì devo fare posta, oggi, domani devo fare nulla. Ah, lavorare devi andare. Ma sto scherzando, che entro il 25. Cioè, ma con le firme poi va. Te ne va apposta. La posta martedì, ma vado verso il mezzogiorno a prendere la macchina, capito? Mezzogiorno meno un quarto, prendo la macchina e faccio il giro apposta. Ma perdo un'ora e 10 minuti, non di più me. E c'ho la giornata pagata. Meglio così. E c'ho già il telecomando io. E più la chiave della panda sono già inserite, quindi già dentro il cancello. Ui, è vero male che faccio vedere un telecomando, sennò un cazzo entravo via. Ui, devo fare no, la posta, ma neanche potevo farla con la macchina mia, perché le chiavi delle casse forti sono dentro la panda. Cazzo. E quando non c'era la carta per mettere il gasolio, ho detto guarda che riceve questa macchina, come devo fare? C'è la carta, e il picco lei? L'ha riciclato, non ha avuto, no, si prende l'altra panda, la numero 40, va bene. Allora, meno male che mi sono preso tutte le chiavi delle cassaforti e le ho invertite nell'altra panda, se non è incasinato. Andava, pare che è tornato a andare a facca, torna al vento, si è calmato, allora si tirava un po' la dieta, si scavava, avanti, torna a fermo. Bisogna soffrire, mi caglio. Guarda, una bella bacinella, metti l'acqua fresca, un po' di ghiaccio dentro, con la moglie. O se il gas dà ciò a pagamento dei pinguini. Oi, andrà bene. Comunque mi sarà, dalla pera alla susina fa bene mettere l'antenna. Che per la susina, vai, dove l'abbiamo messa nell'albero della nozze? Stiamo della noce. La susina, vai. Vai. Niente, quella comunque è l'anguria cavina che ho preso, è talmente buona, saporita, guarda. E quale? L'anguria cavina, quella piccolina. Sì, quelle sono buone, se le vanno mi bade dopo semenze. No, l'anguria cavina, la semenza non ne amano, Sono senza semi, la fanno ristano quello lì. Non ve ne è? Nuda, io infatti compro quella. Perché ho avuto molta esperienza con la cura con i semi, mangiavo, non mangiavo, andavo in bagno e non riuscivo ad andare in bagno, che va via l'insieme tutto pacca di dai, mi ha intoppato. Cazzo, sono pensato buco l'insieme da tappato. Si è fatto un involucro di semi e cacuzza, Mamma mia, ma come non le mangio né sinta né milone, nulla manco. Io quando la prendo, rare volte la prendo un po' grandetta con i semi, li tolgo tutti i semi, me ne basta la gana di magna poi, allora, niente, prendo la guria cavina o la perla nera, quella senza semi. Uia, mamma mia, io prima sì la mangiavo, ne mangiavo anche tanto di anguria, adesso sono, mi sembra, sono 25 anni, 30 anni che non mangio anguria, fatelo conto. Ebbene. Non sei uscito? Ehi, aspetta che sto scrivendo un messaggio. Uia, che calori. Andà bene. Ah, se devo fare la Santa Maria di Pisa, va un po'. Mamma mia, non ha giocato. E cosa devi fare la Santa Maria di Pisa? Devo andare da sanguinaccio. Ah, ma è vero? Va, a mezz'ora, da casa di fronte a casa sua. Penso che sì, per fare un salto, vedete, un bacio, vedete. Vai. Io penso se ti bacio in Samava, ti viene un'altra linea di disco. Per carità, sarà il pensiero, babba mia. E lì fa anche la Fainimi, balla. Ehi, e te la vaso meglio di Benito. Ma noi, qualche giorno ce la facciamo noi, che a me già mi è buona. Con le cipolluzze la facciamo. Cazzo, non mi so gag. No, ho detto qualche giorno ce la faccio a noi, quando c'è freddo, giustamente. C'ho la teglia, c'ho tutto quanto. A ottobre avremo, a fine settembre, to. E ce la facciamo bello, ce la facciamo. altro che sanguinaccio. Se vemo, se buonimo burrasioda, si acchizza. Figlia. Allora, se non abbiamo più l'idea di disco, saltaliamo. Speriamo, Tony, che cazzo non me la posso più lasciare così, no. Ui, non sto più andando, non sto più andando a lungo. Cazzo, prima riuscivo la mattina. Vado cazzo da via Pascoli, alle micicche, a Pedro di Scio. Allora, ma cuidano che a lungo si arriva, a lungo c'è nella mondessa. Ma te l'ho anche detto, allora, quando io stavo bene, vado a portare la macchina a aggiustare lì a Via delle Conce, da Chirchi. Era a piedi, era a casa mia, ci ho visto la mia compagna fino a un pezzo di migrazione di Sassari. La prima rotatoria, che c'è Budi Budi, Sassari. Ha detto, ma sei sicuro? Ti porto fino a... No, no, mi lasci qua. E me l'ho fatta a piedi, una passeggiata finta la gonza. E mi ha fatto bene, stavo così tranquillo. Ma quando vai che dolore, non riesci a far manco 100 metri, eh? Mamma mia, ti capisco, Emanuele, perché ce l'ho anch'io. Sì, perché ti messi a me, mi si addormentano tutte le due le gambe. E il dolore è dal bacino fino a giù, figurati, non è il dolore della schiena, è il bacino fino alle gambe. Tu basta non baciare. Cazzo, mi siete, sembra che mi tirano colpi di bastoni lì, figurati, di dolore che mi viene. No, io ho soltanto la destra, ciò. Solo la destra. A dolore voci, anzi adesso questi dolori sono diversi, eh. Le prime volte, Emanuele, io mi piegavo in due, a gridi, sembrava che mi stavano trappanando l'osso, mamma mia, meglio non ricordarmelo, guarda. Lo so, l'ho provato, allora anche io non riuscivo neanche a lasciarmi la scarpa, cazzo, non riuscivo neanche a lasciarmi la scarpa, la mattina mi alzo tutto quanto cintrato. E io ho piegato in due, dolori, dolori, acchicchini, acchicchini. Ma tu mi pensi che era attaccato, lo abitavo prima, il padrone di casa non ha sentito manco il mio lamento, boh, mi pare strano. Finse un cane era bacente, ma devi... Mamma mia, no, è brutto, eh. È brutto, bisogna farlo, questa roba qui, perché sennò man mano che vai, in peggio sempre. E poi ci vogliono i baccolini, ma te immagini, no, spero che funzioni, dai. No, e poi no, anche se c'è le stampelle lo sento da sé, perché il peso ce l'hai sempre. Vabbè. No, ma è vero se ci cogliono con le stampelle, qua. Anzi, bene e male, io riesco a camminare dritto, tu sei bariduccio, tu sei piccio, qua. Cazzo, mi hai visto l'altra volta quando siamo andati al bar, lì al bar del quadrato, non quello dove ci fermiamo di solito, nell'altro come stavo camminando. Pare mangi la gorilla, tutto con i bracci così, tutto bariduccio. Quello lì, ma non so il dolore che avevo il giorno. Non stavo piangendo per non fare ridere alla gente. Poi c'avevo anche vergogna a farmi vedere così, figurati. Ma non devi avere vergogna, Manuel. Perché a me mi sono fatto anche dolore. Infatti, quando ero con Massimo, che era un infortunio, mi ha detto, sei messo male veramente, ti capisco. Perché anche lui l'ha avuta, quindi le disca, lui ha fatto iniezioni. Ma le lezioni erano qualcosa poi di attivo, me. Ti basta vada, poi passa l'effetto, dopo uno o due mesi ti viene d'orra. Ma a me, insomma, è stato due anni con la cura che ho fatto di iniezioni. Dopo mi è venuto, ho rifatto quella cura di iniezioni e non andava bene. Sono andato a ospedale e mi ha dato la cura delle pastiglie. Con le pastiglie mi è passato. Dopo due anni mi è venuto torra. Ho fatto quella cura di pastiglie e non mi andava più bene. Allora piglia della luce, basta. Non piglio più nulla. Adesso sto prendendo questi microlium da 150 grammi e praticamente dentro questa capsula c'hanno questa morfina qua e ne devi prendere una al giorno e basta. E questi qui sono antinfiammatori e te lo passa. Passati dopo quelle 6 ore ti stanno a rivenire. E quindi non ne fai nulla. Ma è quelle pastiglie che fai arrivare da fuori tu? A proposito. Quelli, allora, Tony, quelli lì sono integratori. Sì, sono buone anche quelle, però non ti fanno passare il dolore. Praticamente sono, questi integratori sono per ricostruirti, rinforzarti la cartilagine, hai capito? Oh, vita ci vuole! Chi è? Gio' Maria, oggi di gomito. Ah, io Gio' Maria, anche tu di dolore vai, non penso. Ah, Dori, buonasera, Emanuele. Allora, i dolori, oia, ti basta baci con me, se vuoi tornare i dolori. Oia! Comunque ciao, già morì ben entrato. E comunque noi adesso 24 andiamo a fare questa acupuntura. Ci hanno detto che ci fa bene e ci passa dolore. Con la prima seduta già si nota la differenza. Me lo auguro il vero cuore, a che naggio le scatole viene. Io forse sento mentre io sono via dolore. Manuel. Veglia. Ripeti. È brutto. Per chi non lo sa, per chi non lo capisce, non sa cosa vuol dire. Dai, che qua mi stanno chiamando, stanno iniziando a preparare. Dai, Manuel, ci sentiamo dopo, dai. E rientro dopo. Ciao, Gio Maria, ciao, Manuel. A dopo. Via, dai, ci sentiamo tu. Saluta in casa, dai. Saluta a Rosalba e a Elsa. Cosa ha cambiato? Ciao, tu. C'è però Tony. Cosa? Ma mi senti? Certo che ti sento. Ok, va bene, dai, vai pure, dai. Ok, dai, ci sentiamo dopo. Gio Mari. Una bomba, sì, non mi senti. Non ho capito. Zitto, sei una bomba. Ah, ok. Scatta, fino a casa io, Manuel. Ui, lascia perdere. Scatta, ancora c'ho la ventola accesa, ragazzi. Adesso ho aperto tutto. Sembra che sta entrando un po' d'arietta dalla parte della strada, là. Adesso lì c'hai l'ombra. E poi da te, perché c'hai la... Proprio sotto c'hai... Sopra c'è la guaina. Ma adesso da parte della strada io sto passando l'arietta e sai, si comincia a starci bene, dai. Se continua questa arietta, va bene, dal riflesso un pochettino, magari possiamo andare là. Si anda bene, dai. L'arietta già entrambi. Ehi, ehi, dai, ci sentiamo, Manuel, dai, ci sentiamo dopo. Ciao, Giovanni, dai, buona continuazione di serata. E bidubo, Gugio, Manuel, è una cacca di serata.